le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla legge di stabilità Padoan risponde alle critiche, la lotta all'evasione è centrale, dice il ministro dell'economia. Oggi Renzi incontra le regioni e smussa le polemiche. Lo scandalo Volkswagen si allarga ancora, truccati anche i dati sui consumi. Nuovo crollo del titolo in borsa, problemi anche per Porsche. Prima sentenza sulla presunta trattativa Stato-mafia, assolto l'ex ministro Calogero Mannino per non aver commesso il fatto. Messina è ancora in piena emergenza per l'acqua. Il nuovo acquedotto utilizzato perderebbe acqua potabile in mare, in collina ancora con le autobotti. Da oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione sono disponibili dati per ogni singola scuola, risultati scolastici delle prove, ma anche edilizia e condizione degli ambienti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura nella puntata di oggi, la legge di stabilità. Questa mattina, dopo giornate di audizioni di parti sociali e istituzioni come la Banca d'Italia e la Corte dei Conti, che non hanno fatto mancare le loro critiche alla manovra e anche i loro dubbi, è stata la volta del governo con il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che si è presentato in commissione per rispondere anche a queste osservazioni. Facciamo il punto con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Il titolare del Tesoro ha ribattuto punto su punto alle critiche ricevute nelle audizioni, contestando l'approccio di fondo delle parti sociali e delle istituzioni che si sono espresse sulla manovra. Gli interventi previsti nella legge di stabilità, detta allora Padoan, vanno valutati nel loro insieme. È un errore di prospettiva se si isolano singole misure senza tener conto del quadro organico, a partire dalla lotta all'evasione fiscale. La ripresa si sta rafforzando, ha aggiunto il ministro dell'economia, e il debito inverte la rotta. Dopo 8 anni ci sono risultati tangibili con evidenti segnali di ripresa del lavoro. Altro capitolo poi quello delle tasse. Padoan ha difeso il taglio di Tasi ed Imu. Sentiamo le sue parole. Si riducono inoltre le imposte sulla proprietà di immobili residenziali adibiti ad abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso, che interessano oltre il 70% macchinari di impresa cosiddetti imbullonati. Il primo intervento mira a modificare le aspettative delle famiglie e le relative decisioni di consumo. Gli altri due ad accrescere la competitività del sistema produttivo. Le coperture della manovra sono senza aumenti di tasse, ha detto ancora Padoan, tranne quello che riguarda i giochi. Il fronte poi Simone della sanità, il braccio di ferro con le regioni. Oggi alle 18, lo ricordavi, l'incontro a Palazzo Chigi con i governatori, tutti sul piede di guerra per l'entità dei fondi. C'è un'esigenza generale di migliorare l'efficienza delle regioni, ha detto ancora Padoan, mentre il presidente del Consiglio Renzi ha ricordato: è normale che le regioni vogliano di più, ma non diciamo bugie, abbiamo messo a bilancio 1 miliardo in più all'anno per la sanità. Andiamoli bene, e per il momento è tutto. Linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e su questi temi torneremo proprio con te più in dettaglio sul confronto con le regioni più avanti nella seconda parte della trasmissione. È stato assolto l'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Assolto per non aver commesso il fatto. Si chiude così per il momento uno dei capitoli della cosiddetta trattativa Stato-mafia, con l'assoluzione da parte del GUP del Tribunale di Palermo Marina Pitruzzella dell'ex ministro Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. Mannino, a differenza degli altri imputati, aveva scelto il rito abbreviato ed è per questo che è stato giudicato separatamente dai boss Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e Antonino Cinà, dal figlio di Don Vito Ciancimino Massimo, dagli ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni, dal colonnello Giuseppe De Donno, dell'ex senatore Marcello Dell'Utri e dall'ex ministro degli interni Nicola Mancino, che restano imputati nel processo principale attualmente in corso. Il PM Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Vittorio Teresi, gli stessi che sostengono l'accusa nel processo sulla cosiddetta trattativa, hanno annunciato che impugneranno la sentenza, mentre il capo della procura di Palermo, Francesco Loboi, è più cauto. Valuteremo se impugnare la sentenza dopo averne letto le motivazioni, dice Loboi. Per l'avvocato Nino Caleca, uno dei legali di Mannino, i processi penali non sono i luoghi più adatti a ricostruire la storia. Si fanno con i fatti e per accertare precise condotte penali. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. È una giornata, quella di oggi, nella quale torna in primo piano il caso Volkswagen. Dopo lo scandalo del software truccato che consentiva di cambiare le emissioni di monossido di azoto omologando i veicoli con livelli molto più bassi di quanto effettivamente non fossero, arriva l'ammissione che riguarda anche i consumi e altre emissioni, quelle di CO2. Sono coinvolti almeno 800.000 veicoli in Europa. Abbiamo in diretta con noi Andrea Malan del Sole 24 Ore per fare un punto in diretta. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, una nuova tegola. Sì, una nuova tegola è di tipo diverso, forse più grosso, nel senso che qui non si tratta più di un trucco, diciamo, ai margini della legalità o che si inserisce comunque in una serie di accorgimenti che le case utilizzano in generale per adattare i veicoli ai test. Si tratterebbe di una frode vera e propria. Io ho un veicolo, un'auto che so che consuma 8 litri ogni 100 km, dico che ne consuma 7, quindi è proprio un livello superiore, confermato dal fatto che per il problema degli 800.000 veicoli la Volkswagen ha dichiarato che stima un costo di 2 miliardi di euro, cioè 2.500 euro a veicolo. Teniamo conto che in questo caso non c'è nulla da riparare come nel caso precedente del software truffaldino, ci sarebbe semplicemente da risarcire probabilmente i clienti che hanno acquistato queste vetture pensando a un consumo inferiore. Teniamo conto che si apre proprio oggi in Italia una class action intentata da Altro Consumo e dall'Associazione di Consumatori contro la Volkswagen proprio per il fatto di aver dichiarato consumi inferiori al reale. La cosa è complicata, teniamo conto che questo discorso Volkswagen ha messo ieri riguarda proprio la fase di omologazione dei veicoli, fase di omologazione che per quanto riguarda tutte le Volkswagen si svolge in Germania. Per la normativa europea i veicoli sono omologati in un paese e poi possono essere venduti negli altri, quindi sarà un problema di rapporto tra la Volkswagen e le autorità tedesche per quanto riguarda questo caso, che però si potrà poi ripercuotere su eventuali class action anche negli altri paesi europei, tra cui l'Italia. Andrea, tra l'altro oggi c'è anche un parziale coinvolgimento di Porsche. Dunque, Porsche è una vicenda legata invece per ora agli Stati Uniti. Sappiamo che lo scandalo, diciamo, principale, quello più grosso, riguarda 11 milioni di auto diesel del gruppo Volkswagen, che è partito dagli Stati Uniti e riguarda anche il mercato americano. Sono però auto con motore 2 litri o 1.6. Adesso è uscita la notizia l'altro ieri, l'ente americano per la protezione dell'ambiente ha detto che ci sono dei dispositivi illegali installati anche sui motori 3 litri, quelli più grossi, quindi che equipaggiano tra l'altro anche appunto alcuni modelli della Porsche, in particolare il SUV Cayenne. La Porsche ha temporaneamente sospeso le vendite del Cayenne diesel negli Stati Uniti come misura precauzionale, anche se in questo caso il gruppo Volkswagen nega che si tratti di software motore in grado di alterare i risultati delle emissioni. Qui probabilmente c'è un discorso di dispositivi magari non inseriti direttamente nel motore ma adesso collegati, che potrebbero alterare questa emissione. Diciamo che complessivamente, anche se il singolo caso non è possibile definirlo attualmente, certo il complesso di queste vicende fa sì che la credibilità del gruppo Volkswagen in generale sia tutt'altro che ristabilita, e per il nuovo management ci sarà un grosso lavoro da fare per poter fare finalmente chiarezza. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Su questi temi tra l'altro torneremo più avanti. Il gruppo, anzi Volkswagen, in borsa in questo momento perde il 5,16%. Proseguono e si fanno sempre più intense le indagini sull'aereo russo della Metrojet caduto nel Sinai, mentre riportava a San Pietroburgo da Sharm el Sheikh 224 persone. Il fatto è avvenuto sabato. Oggi sono stati ritrovati i corpi di 33 passeggeri. Mentre sono state estese a un'area di 40 km quadrati le ricerche nella zona del Sinai in cui giacciono i resti dell'aereo precipitato sabato, continuano a San Pietroburgo il cordoglio dei familiari e le procedure di identificazione delle vittime. 33 delle 224 persone morte hanno ora un nome, ma molti corpi sono in uno stato tale da rendere difficili le identificazioni, il che, secondo un medico russo che sta lavorando sul posto, fa pensare a un'esplosione. Ipotesi suffragata in particolare da quel lampo di calore in aria nel momento del disastro, che è stato intercettato da un satellite infrarossi americano. La Russia sta reagendo, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, lo stesso che viene definito maiale in un nuovo video diffuso da un sedicente califfato. Invaderemo il vostro paese, uccideremo la vostra gente, minacciano i miliziani che distribuiscono dolci ai ragazzini per festeggiare dopo lo schianto dell'aereo. La colpa di Putin sarebbe quella di aver lanciato raid aerei in Siria, ma sull'autenticità del video hanno seri dubbi sia la CNN che Al Jazeera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo alla cronaca italiana raccontando prima di tutto un omicidio-suicidio a Suzzara, Mantova. Luigi Santachiara, un uomo di 88 anni, si è tolto la vita impiccandosi al balcone di casa, ma prima ha tolto il respiratore al figlio Paolo, disabile. L'anziano ha lasciato un biglietto con scritto «Scusate del gesto folle». E resta in primo piano la vicenda delle rivelazioni uscite dal Vaticano, documenti segreti dati a due giornalisti, Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, definite in due distinti libri, Via Crucis, in uscita oggi a Varese, che uscirà domani. Queste rivelazioni, che riguardano prevalentemente sprechi e impiego di denaro in maniera scorretta, hanno condotto nei giorni scorsi a due arresti, come vi abbiamo raccontato, un monsignore e una collaboratrice laica del Vaticano. Gli aggiornamenti. Monsignor Balda, che resta ancora in carcere, e Francesca Sciocchi, che messa in libertà si professa innocente. Presto potrebbero essere messi a confronto, mentre in queste ore altre persone informate dei fatti vengono interrogate. Si vuole ricostruire il contesto in cui sono maturati i furti di documenti riservati. Dai mega appartamenti gestiti da personaggi della curia, come quello del cardinal Bertone, ai viaggi aerei esclusivamente in business class, fino ai quattro fondi di carità gestiti dallo IOR nel 2013-2014, senza che neanche un euro andasse ai bisognosi. Questo raccontano i documenti in parte finiti nei libri di Nuzzi e Fittipaldi, in parte ancora non pubblicati, ma che potrebbero portare ad ulteriori colpi di scena. E poi ci sono le registrazioni di alcune conversazioni riservate del Papa, in cui Francesco chiede trasparenza e chiarezza. Andiamo avanti con serenità e determinazione, ha confidato il pontefice ai collaboratori, evocando durante l'udienza di oggi dedicata alla famiglia la capacità di perdono. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto questo avviene mentre Roma si prepara ad un evento religioso importante, il Giubileo, o dovrebbe prepararsi. Insediato il commissario, il prefetto Tronca, Renzi non ha confermato né smentito che i provvedimenti per la gestione dell'anno santo straordinario verranno presi nel prossimo Consiglio dei Ministri. E domani, intanto, si apre il processo per Mafia Capitale. Abbiamo in diretta la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. Sarà un processo dai grandi numeri e dalle grandi attese, come tu stesso hai detto, attese giudiziarie, politiche e mediatiche. Ma quello che si apre domani nell'aula Occorsio della Cittadella della Giustizia romana sarà anche un processo con una sfilata di volti noti, a giudicare almeno dalle liste dei testimoni appena depositate. Quella di Salvatore Buzzi, ad esempio, il RAS delle cooperative, il braccio economico di Carminati, secondo l'accusa, ci sono 282 nomi importanti. Dal ministro Poletti, il ministro del lavoro chiamato per la famosa foto a cena con anche i Casamonica, a uno della famiglia mafiosa di Casamonica, appunto, dall'ex sottosegretario Gianni Letta all'ex sindaco Gianni Alemanno, da politici del PD e SEL al presidente dell'autority anticorruzione Raffaele Cantone. Ma vedremo quanti di questi nomi saranno poi ammessi dalla corte, e sono tanti anche le parti che chiederanno di costituirsi parte civile, oltre alle istituzioni come il Comune di Roma Roma anche partiti come i 5 Stelle. Si parte subito con un calendario serrato di 4 udienze a settimana già fissate fino a luglio, e oggi per Roma è il giorno dell'attesa del giudizio in un certo senso. Ed è tutto. Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Restiamo su Roma per parlare dell'assemblea sindacale al Colosseo. Si temeva la chiusura, questa volta nessun disagio per i turisti. Alla fine il Colosseo è rimasto aperto e così tutti i siti della soprintendenza. Mattina di assemblea sindacale si temeva una serrata dei monumenti romani come accaduto in precedenza, ma applicando il decreto Franceschini sui luoghi di cultura come servizi essenziali sono stati reperiti 70 addetti per garantire le aperture dei siti archeologici. Oggi il merito di essere riusciti a tenere aperti tutti i siti di Roma, compreso il Colosseo, lo condividiamo con tutti i protagonisti, dichiara il soprintendente di Roma Francesco Prosperetti. Merito anche del decreto Franceschini, aver definito i beni culturali come servizi pubblici essenziali ha fatto capire a tutti la rilevanza del nostro servizio. Responsabilmente abbiamo deciso di mantenere tutti i siti aperti, dice Rinaldo Satolli, il segretario nazionale della sigla sindacale che ha indetto l'assemblea, ma è chiaro che si tratta di un segnale temporaneo in attesa della conversione del decreto Franceschini. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a Messina perché l'acqua è tornata, ma mica tanto, insomma circa un 50%. Ci sono ancora problemi sulle colline, mentre parte un nuovo appello, questa volta da un'altra città siciliana, da Gela, perché dicono insomma l'acqua ce l'abbiamo razionata e non da oggi. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano la presunta trattativa Stato-mafia, è arrivata la prima sentenza, è stato assolto l'ex ministro Calogero Mannino, che dice: quei pubblici ministeri mi hanno perseguitato. Sulla legge di stabilità Padoan risponde alle critiche, la lotta all'evasione centrale. Questo pomeriggio Renzi incontra le regioni e smussa le polemiche. Lo scandalo Volkswagen si allarga ancora, truccati anche i dati sui consumi e sulle emissioni di CO2. A Messina è ancora emergenza per l'acqua, il nuovo acquedotto utilizzato perderebbe appunto acqua potabile in mare. Da oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione, ne parleremo tra un attimo, disponibili i dati per ogni singola scuola, risultati scolastici delle prove, ma anche edilizia e condizione degli ambienti. Diventato quasi il nostro corrispondente da Messina, l'assessore Sergio De Cola, ai lavori pubblici e protezione civile. Bentornato, assessore, buongiorno. Grazie, buongiorno. La chiamiamo praticamente ogni giorno perché ci sembra che la situazione sia ben lontana dall'essere completamente risolta. Oggi sui giornali, e partirei da qua e poi andiamo sull'aggiornamento di qual è l'afflusso di acqua in città, come vanno le cose per i cittadini. Oggi su qualche giornale viene pubblicato che l'acquedotto, quello che state utilizzando per emergenza, diciamo così, visto che è rotto quello principale, sverserebbe acqua potabile in mare. È vero oppure no? Io credo che questa sia una notizia che si riferisca al fatto che l'acquedotto che stiamo utilizzando, che è appunto l'acquedotto dell'Alcantara, che ci sta rifornendo acqua a circa 300 litri al secondo attualmente, molti anni fa si è interrotto in località Galati, vicino Messina. Io so che quel danno non è mai stato completamente riparato, però ecco, per avere una contezza di questo bisogna chiederla alla società Sicilia Acque, che gestisce l'acquedotto. Sì. Allora, ci dia un quadro della situazione in città, perché ieri ci ha detto che l'afflusso di acqua sarebbe stato più o meno del 40-50% in meno rispetto al normale, così più o meno? Allora, siamo riusciti ad attivare questo bypass nel tardo pomeriggio di ieri, attualmente ci sta dando circa 300 litri d'acqua al secondo, siamo riusciti ad attivare degli altri pozzi che abbiamo in città e siamo a circa 360-370 litri al secondo, quindi siamo riusciti a migliorare di circa il 20% la quantità di acqua che mettiamo in acquedotto in città. Riusciamo a servire in questo momento credo il 60-65% della città, anche se non per tutta la giornata. Il resto della città c'è un servizio di autobotti che lavora 24 ore al giorno, coordinato dal COC, Centro Operativo Comunale, insieme con la Protezione Civile Regionale, Nazionale, con l'Ispettorato Forestale. Stiamo collaborando tutti insieme per coordinare, diciamo, l'erogazione di acqua tramite autobotte. Assessore, chiaramente questa è una situazione di emergenza, perché non è che si può andare avanti con le autobotti tutta la vita. Ci dà un'idea, vi siete fatti un'idea dei tempi per risolvere questo problema? Perché, insomma, l'acquedotto principale, quello che vi serviva e consentiva di dare l'acqua a tutta la città, lo abbiamo raccontato, si è rotto a causa di una frana. Ora, visto che non siamo a maggio, quindi possiamo aspettarci nuove piogge e presumibilmente nuovo dissesto nei prossimi mesi, io vorrei capire da lei se avete una vaga idea di quando può essere ripristinata la normalità a Messina. È in questo momento in atto un tavolo tecnico, appunto, con tutti i soggetti che elencavo prima: Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Dipartimento Regionale, noi, Comune, Lama, Milgenio Civile, che stanno ragionando su qual è la soluzione migliore e più rapida, ovviamente, per ripristinare l'acquedotto. In questo momento il tavolo è ancora aperto, ci sono, diciamo, varie ipotesi di lavoro. Probabilmente entro un paio d'ore dovrebbe venire fuori la soluzione, speriamo. Entro un paio d'ore la soluzione, quindi forse anche i tempi su quando potrà essere ripristinata interamente l'acqua in una città che, lo ricordo, è una città di 250.000 abitanti, quindi non propriamente spicci, per così dire. C'è una città più piccola che protesta proprio per la condizione dell'acqua, e ringrazio Sergio De Cola, assessore ai lavori pubblici e protezione civile del comune di Messina, che è Gela. Domenico Messinese è il sindaco, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. In realtà, come dire, la vicenda di Gela è venuta fuori perché, così come Messina, avete lanciato un appello a Fiorello, ma la realtà è che è un po' più strutturale la vostra situazione. Sui social girano immagini di gente che ha preso l'acqua dai rubinetti, l'ha messa dentro un decanter da vino e si vede quest'acqua che è completamente gialla. Ci dà un quadro di quanta acqua hanno i cittadini di Gela? Intanto parliamo di una città di 80.000 abitanti, dove vi è un'erogazione che non è 24 ore su 24, ma ha delle turnazioni che normalmente sono ogni 4 giorni, ma in alcune zone arrivano anche a 15 giorni, e ci sono interi quartieri come Manfia, Boggio Blasco, dove non esiste né la rete fognaria né la rete idrica. Diciamo che su Gela l'acqua è un problema atavico che non è stato mai affrontato. Io sono diventato sindaco da 4 mesi e ho cercato di farmi un quadro della situazione reale. Il problema si conosce da molto tempo, c'erano dei piani e degli investimenti che dovevano essere realizzati con i fondi POT entro il 2006. In realtà tutt'oggi si è fatto ben poco. Il problema non è solo esclusivamente la distribuzione dell'acqua, che praticamente, avendo dei turni di erogazioni prevalentemente di notte, tra le altre cose, succede che le tubazioni rimangono vuote per diversi giorni, e questo provoca che all'interno delle tubazioni può entrare qualcos'altro, e in ogni caso ci sono fenomeni di ossidazione che vanno a deteriorare notevolmente la qualità dell'acqua distribuita. Tra le altre cose, parlando con Sicilia Acqua, che è il gestore che dà l'acqua alla città, e dice che non ci sono problemi di fornitura dell'acqua, quindi l'acqua in teoria c'è, in pratica invece non c'è, cioè, Sicilia Acqua dice che c'è e in pratica l'acqua non c'è o c'è molto meno. Sindaco, ci fa capire brevemente in 30-40 secondi a cosa state pensando per risolvere questo problema? Ricordiamo tra l'altro comunque che la Sicilia rappresenta un caso emblematico, insieme ad altre regioni e purtroppo quasi tutte il Mezzogiorno, di dispersione dell'acqua e quindi banalmente di acquedotti fatti male, cose di questo genere. Però, insomma, ci dà un'idea di che tempi, in che tempi si potrebbe risolvere tutto questo? Allora, noi, il gestore della distribuzione dell'acqua già viene fatto da una società che si chiama Calt'Acqua, che è stata più volte convocata, e siccome vi sono dei quartieri nuovi che hanno meno di 10 anni, quindi con rete idriche nuove, che viene data l'erogazione in modo storico ogni 4-5 giorni, abbiamo già intimato alla società di attivarsi per poter mettere in pressione queste prime linee. In più, di accelerare gli investimenti previsti. Gli Io le faccio un esempio: la zona nord di Gela, che è un bacino di circa 30.000 persone, in realtà si può dire che non hanno una rete fognaria, perché l'attuale rete fognaria è ricavata da un vecchio canale di scolo che è stato chiuso, ma la pressione idraulica è insufficiente. Tra le altre cose, quando piove succede che diventa estremamente pericoloso. Certo. Abbiamo fatto un'analisi e stiamo cercando di andare a sollecitare le autorità competenti per poter intervenire, perché è previsto nel piano di investimento che deve essere realizzato dopo il 2023, ma in teoria nel progetto originario era nel 2006, quindi capisce che è proprio una volontà strutturale e bisogna iniziare. La ringrazio, grazie a Domenico Messinese, sindaco di Gela del Movimento 5 Stelle, al quale auguriamo buon lavoro e speriamo che vengano rispettati questa volta i tempi. Damiano Previtali, responsabile del sistema di valutazione al Ministero dell'Università e della Ricerca, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Da oggi potete, si può andare su un sito del Ministero che si chiama Scuola in Chiaro, ricercare la scuola dove stanno i propri figli e trovare che cosa, Previtali? In Scuola in Chiaro abbiamo una serie di informazioni puntuali, mirate, anzi potremmo dire per molti aspetti selezionate e qualificate dallo stesso Ministero. L'idea è sostanzialmente di facilitare i genitori nel momento in cui scelgono la scuola per i loro figli attraverso una lettura di quella che è la qualità, il profilo di quella scuola. Sappiamo benissimo. Che indicatori trovano i genitori? Allora, abbiamo dentro più informazioni, abbiamo informazioni legate agli studenti, ad esempio informazioni rispetto a abbandoni, trasferimenti, quanti sono stati ammessi, non ammessi alla successiva, e anche informazioni sugli esiti maggiormente qualificate, pensi ad esempio all'opportunità per i genitori che scelgono un liceo di sapere come vanno gli studenti all'università quando escono da quel liceo, e quindi, oppure a genitori che scelgono o intendono scegliere un istituto tecnico, di sapere come vanno quegli studenti quando escono da quell'istituto in ambito lavorativo, che tipo di lavoro trovano, che tipo di stipendio hanno, eccetera eccetera. Tutto questo sul sito Scuola in Chiaro del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tutto questo nasce di fatto da un processo anche di autovalutazione delle scuole e una raccolta di dati tramite i dirigenti, i docenti e non solo loro. Ci dice Previtali con che criterio possiamo considerare attendibili questi dati, visto che è un'autovalutazione da parte delle scuole? No, questo è opportuno davvero chiarirlo, perché in effetti noi abbiamo questa tendiamo a pensare che l'autovalutazione sia un processo in cui ogni scuola se la suona e se la canta, come si suol dire. In realtà questa autovalutazione è un rapporto molto serio, nel senso che nasce da 49 indicatori popolati da una serie di dati che fornisce lo stesso ministero alle scuole, e quindi ogni scuola si vede comparata, confrontata con i dati delle scuole a livello provinciale, regionale e nazionale, e tramite questo confronto allora inizia un processo di autovalutazione. Quindi capisce benissimo che se la scuola non usa quei dati o non li usa in modo coerente, lo stesso sistema, che ha un format unico e rileva queste situazioni qua, rileva l'incongruenza della scuola, e quelle scuole verranno poi a seguito chiaramente chiamate e ispezionate eventualmente. La ringrazio, grazie a Damiano Previtali, responsabile del sistema di valutazione al Ministero dell'Università e della Ricerca. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra poco cosa succede in borsa, e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo sulla legge di stabilità, concentrandoci un po' di più sull'incontro di oggi di Renzi con le regioni, e torneremo a parlare del caso Volkswagen. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. La legge di stabilità in primo piano, Padoan risponde alle critiche, la lotta all'evasione è centrale. Oggi Renzi incontra le regioni. La prima sentenza sulla presunta trattativa Stato-mafia, assolto l'ex ministro Calogero Mannino, che dice i PM mi hanno perseguitato. Messina, come avete sentito, ancora in emergenza per l'acqua, il 50 è servito in questo momento circa il 60% dei cittadini, ci ha detto l'assessore. Lo scandalo Volkswagen si allarga ancora, truccati anche i dati sui consumi, il nuovo crollo del titolo in borsa. E proprio di borsa parliamo adesso. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo a parlare in questa seconda parte di politica economica, innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie, perché Palazzo Chigi ha pubblicato le linee guida per il cosiddetto master plan per il mezzogiorno. Sul sito web della Presidenza del Consiglio sono pubblicate le analisi, le riflessioni e le proposte che introducono questo piano per il Sud, fornendo il quadro di riferimento entro il quale si collocheranno le scelte operative su cui stanno lavorando anche governo, regioni e città metropolitane. Proprio di governo e regioni parliamo adesso, perché oggi pomeriggio l'incontro tra l'esecutivo appunto e le regioni dopo le tensioni dei giorni scorsi sulla legge di stabilità e sul taglio delle risorse che il governo dice non essere un taglio. Vincenzo Miglietta, ciao di nuovo, buongiorno. Sì, di nuovo buongiorno Simone. L'incontro con i governatori, lo abbiamo anticipato, sarà alle 18. I presidenti delle regioni serrano per questo le fila, ribadiranno l'insostenibilità dei tagli che solo nella sanità, a loro dire, negli ultimi 5 anni hanno eroso alle regioni 14,7 miliardi. Il livello di finanziamento per il 2016 previsto nel patto per la salute era pari a 115,4 miliardi, ora è di 111, scrivono nero su bianco nel documento presentato alle commissioni bilancio. E il fronte, lo ricordiamo, è politicamente trasversale, da Chiamparino e Rossi, Piemonte e Toscana, Zaia, Maroni e Toti, Veneto, Lombardia e Liguria. Dal governo a parlare di sanità e regioni sono però oggi Renzi e Padoan. È normale che le regioni vogliano di più, ma non diciamo bugie. Abbiamo messo a bilancio 1 miliardo in più all'anno per la sanità. Spendiamoli bene, dice il presidente del Consiglio Renzi. Sentiamo allora le sue parole. Lo scorso anno, nel 2014, i soldi per la sanità erano 109 miliardi. Quest'anno sono diventati 110 e il prossimo anno diventeranno 111 miliardi. Poi è normale che le regioni desiderino di più. È normale che tutti quelli che ragionano di sanità vorrebbero sempre più soldi. È giusto, è logico, è comprensibile. Ma in un bilancio dello Stato noi abbiamo messo 1 miliardo in più all'anno, che ci sembra una bella cifra. E queste dunque le parole di Renzi. C'è un'esigenza generale di migliorare l'efficienza delle regioni, le parole invece del ministro dell'economia Padoan. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, noi torniamo a parlare della vicenda Volkswagen, della quale vi riferivamo in parte già nella prima parte della trasmissione, ossia questa ammissione che riguarda anche i consumi e altre emissioni, quelle di CO2. Torniamo a parlarne, lo facciamo con Massimo Nascimento Bene, che è condirettore di Quattro Ruote. Massimo, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Mi sembra che dal punto di vista di mercato la cosa possa avere un impatto ancora maggiore su Volkswagen, perché, come dire, se delle emissioni non interessa moltissimo, non interessa esageratamente agli utenti, dei consumi gli interessa un pochino di più, che dici? Beh, questo è indubbio, anche se torniamo in fondo al solito punto, che i consumi ufficiali non avessero grande rispondenza con la realtà, anzi fossero molto distanti, i consumatori ormai lo avevano ampiamente acquisito. Sorprende un po' questa, diciamo, questa autodenuncia della Volkswagen, oltretutto che comporta un accantonamento consistente, perché 2 miliardi di euro sono comunque dei accantonati per eventuali rivalse dei consumatori relativi appunto alle differenze nella dichiarazione del CO2, sono comunque una bella cifra. Mi viene quasi da pensare che ci sia un po' un accordo con le autorità tedesche con cui la Volkswagen sta collaborando e sta praticamente riverificando le omologazioni di tutti i veicoli, per cui le autorità dicono noi non vi contestiamo più niente, però voi vi autodenunciate per qualsiasi cosa ci sia che non va. Ripeto, la mia supposizione, però non trovo altra spiegazione. Non a caso Massimo, proprio in questi minuti viene battuta dalle agenzie una dichiarazione di Steffen Seibert, che è il portavoce di Angela Merkel, che dice Volkswagen ha il dovere di chiarire in piena trasparenza le nuove irregolarità emerse relative ai valori delle emissioni di CO2. Hanno detto oggi le autorità tedesche tedesche, che comunque il buon nome del Made in Germany non è in discussione. Tra l'altro, Massimo, oggi viene sfiorata da tutte queste vicende anche la Porsche, il cui amministratore delegato, lo ricordiamo, è diventato l'amministratore delegato di Volkswagen. Quindi la situazione forse anche a livello aziendale si può complicare ulteriormente. Credo che più complicata di così ci vuole molta immaginazione per pensarla. Sicuramente dal punto di vista dell'immagine non è un bel segnale. Dal punto di vista concreto, direi che però Müller può anche in qualche misura chiamarsi fuori, perché è vero che le macchine che portano il suo marchio montavano quel diesel, ma si trattava pur sempre di un diesel, diciamo, sviluppato in Audi e poi fornito a Volkswagen. Peraltro questa vicenda è sorprendentemente ancora più complessa, questa dell'ultima denuncia dell'EPA riferita ai turbo diesel 6 cilindri, perché la contestazione americana in questo caso è molto più circostanziata di quella fatta un mese fa, e che ha portato alla scoperta iniziale del trucco. Per contro, questa volta la Volkswagen ha negato il trucco, probabilmente scegliendo una linea di difesa che va a sostenere: sì, io ho dei software che lavorano diversamente a seconda delle condizioni di impiego, ma sono definiti per proteggere il motore nel funzionamento a freddo e non per truccare le emissioni. Credo che sia questa, ma ripeto ancora, anche qui è una mia supposizione, perché i comunicati della Volkswagen sono incredibilmente sibillini di questo periodo. Credo che sia questa la linea di difesa scelta dai tedeschi, perché non ne vedo altre possibili, visto che questa volta la contestazione degli americani è molto molto più circostanziata. Ti ringrazio, grazie a Massimo Nascimbene, con direttore di Quattro Ruote, che anche oggi ci ha aiutato un po' a fare il punto sulla vicenda Volkswagen, così come ha fatto nella prima parte della trasmissione il nostro Andrea Malan del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.